you get involved in this. Abbiamo uno qua dentro e due sul tetto. Uno qua dentro e due sul tetto. Vai, grande. Vai, Luca non fa capire bene, l'ha seccato. Ah, vai Luca, annichilito. Bravo Luca. Bravo, un dunato. Stanno portando tutti i capi sulla gente della terra. Ah, i morti allora. Mi sa che qualcuno l'ha preso. Mi sa proprio di sì. Allora, secondo punto. 5 metri a sinistra, sacchetti in basso, postazione, la vedi? Minchia. Ok. Vedi quelle due persone che stanno passando adesso per il fondo sul muro? La direzione è quella. La cassa è sotto. Il tipo con la postazione con l'RPG. Le vedi? Sono sacchetti in sabbia. Ok, appena puoi. La postazione è aperta. Hai caricato un video? Vai, vai. Via di fianco. Via di fianco, che mo parte il missile. Aspetta. Sei preoccupato? Appena vedi, ascolta, nel buio tira la gente, hai capito? Non tirare nel vuoto, capito? Vieni a me. Cristo! Bravo!